Della finanza sono i santoni, del due di denari, conduttori e padroni. Se vuoi trovarti dei bei soldoni tra le mani, ascolta i consigli di Meazze La Rosciani. Se la borsa crolla e lo spread sale, tu non temere, loro ti sapranno consigliare. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. If you wanna do right, whole and day, do right, woman. Mama, you gotta be a do right, whole and day. Buongiorno. Buongiorno Deborah, questa notizia secondo me è bene che la legga tu, perché altrimenti, guarda, sì, poi si crea questa cosa che se la leggo io, ma lo fai per perde, farti dire, per perde, fare il perde di piacione. autorevolezza. Esatto. Ma no, no, no, ma ti tu, devo dilla dire tu. che io la leggo volentieri. Devo dire che mi dispiace quando queste notizie debbano occupare intere pagine di giornali, perché appunto fanno notizia. Cosa è successo? Che dopo 11 anni a capo del portale di vendita online di abbigliamento Zalando, Rubin Ritter ha deciso di dare alla sua vita una nuova direzione per dedicare più tempo alla famiglia che sta crescendo. E quindi nel prossimo mese di maggio se la prende anche con un po' di calma, e quindi questi figli saranno anche un po' cresciuti, forse saranno meno problematici. Si dimetterà appunto nel prossimo mese di maggio. Una decisione che lui ha raccontato arriva dopo mesi di attenta riflessione, dopo più di 11 anni in cui questa azienda è stata la sua priorità. Sente che è ora di dare alla sua vita una nuova direzione, ma ha aggiunto anche un altro aspetto importante. Ha detto: noi abbiamo convenuto con mia moglie che per i prossimi anni le sue ambizioni professionali dovrebbero avere la priorità. Peraltro è stato utilizzato questo condizionale, quindi speriamo che non ci ripensi. Pertanto lui fa questo importante passo indietro, si dedicherà alla famiglia, sicuramente le risorse economiche per stare tranquilli non mancheranno, e la carriera appunto prioritaria nell'ambito di questa famiglia sarà quella di sua moglie. Questo è quanto, Mauro. Peraltro, oltre a questo di Zalando, c'era stato già un altro caso celebre, molto raccontato dalla stampa nelle ultime settimane, che riguarda il vicepresidente americano, la signora Kamala Harris, che ha lo stesso un marito molto impegnato professionalmente, perché è un socio di un grande studio legale di L.A. Piper. Peraltro noi l'avevamo raccontato anche perché li conosciamo molto bene, li ospitiamo molto spesso a Due di Denari. E anche il signor Doug Emhoff ha aperto questa nuova fase della sua vita dedicandosi esclusivamente a fare il second gentleman, e quindi sostanzialmente il first lady al maschile. E quindi anche questa notizia appunto aveva occupato molte pagine dei giornali americani. A me fa un po', come si dice, un po' specie il fatto che debbano essere enfatizzate così. Sono anche persone che se lo possono un po' permettere, magari, come dire, nella quotidianità, nella normalità delle famiglie alle quali parliamo, forse queste scelte sono un pochino più difficili da fare. Che cosa ne pensi? O meno consuete. Le auspichiamo. Sai ecco, che sì, noi il mercoledì parliamo sempre di lavoro con INAPP, e proprio in uno di questi appuntamenti che abbiamo da settembre e proseguiranno fino a Natale, e avevamo segnalato come nella ripresa post lockdown, insomma nel mese di giugno, c'era stata una minore ripresa proprio per le donne. Quindi si tornava un po' a, sembrava, almeno così segnalavano le ricerche dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, si tornava un po' alle vecchie abitudini, per cui il caregiver, o insomma chi si occupa dei figli, dei parenti anziani, dei genitori, eccetera, è la donna e l'uomo va al lavoro. E non è naturalmente tutta colpa degli uomini, evidentemente è proprio tutto un sistema che contribuisce a farci pensare, a farci comportare così. Anche oggi comunque è mercoledì e quindi anche oggi parleremo di lavoro. Questo è il motivo per cui abbiamo aperto con questa notizia. Oggi parleremo, guarda, di una cosa che mi riguarda, cioè l'invecchiamento della forza lavoro. Sì. Perché io invece sono esclusa, no? È un tema che non ti interessa, però ti chiedo un po' di pazienza, insomma. Non interessa certo, neanche guarda, il nostro... Guarda, già questo 2020 mi ha fatto invecchiare di 10 anni, quindi quando tornerò in redazione vedrai veramente un'anziana con il bastone in mano che appunto proverà a fare delle dirette radiofoniche, anche se insomma diciamo oggi essere in avanti con l'età è una buona cosa anche per le aziende. Guarda, io ti dico così, Pietro Lacorte e Marco Lombardo, giovanissimi, non sono interessati a questo tema, anzi loro hanno davanti decenni e decenni ancora di fulgida carriera e quindi, come dire, si potranno distrarre, non troppo però Pietro, per favore, non troppo Marco, perché abbiamo bisogno di voi, come sempre naturalmente, e noi più avanti parleremo con gli esperti INAP. Se volete mandarci dei messaggi, ad esempio SMS o con WhatsApp, potete comporre l'abituale 349 238 6666. Se invece volete parlarci in diretta, 800 24 00 24 è come sempre il nostro numero verde. Ci state scrivendo ancora su cashback, oggi abbiamo fatto voto di non parlarne perché però il fioretto. Facciamo un fioretto, però possiamo dirvi Mariano che il giorno dopo effettivamente io ho provato Deborah, ancora non sono riuscito a farla attivare, mi dice, mi dà dei messaggi, non funziona, non lo so. Va bene, oggi non ne parliamo, magari domani, dai, facciamo questo fioretto, perché non vuoi essere umiliato da me che invece ce l'ho fatta. Ecco, pare questo... che abbia preso i due sistemi di pagamento che io ho inserito, anzi tre ne ho messi. Ma, scusa, non perché abbia tutte queste carte di credito, perché ho un bancomat, una carta di credito e un sistema cashless da inserire. Pare che li abbia presi tutti e tre. Ma non voglio dire niente. Ma scusa, allora adesso vado subito a sgridare i colleghi del giornale radio, perché era una notizia che andava data, cioè qualcuno c'è riuscito, insomma, e abbiamo la testimonianza. Andiamo al giornale radio invece del risparmio. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. E oramai, così come la musica dello squalo ci serve per introdurre la patrimoniale, la cavalcata delle Valchirie di Wagner ci serve per introdurre l'antitrust. Che ha fatto oggi l'antitrust, Deborah? Guarda, e dobbiamo veramente complimentarci con loro, ma devo anche dirti, Mauro, che secondo me prima di Natale noi dobbiamo portarli in trasmissione e farci raccontare che uso fanno di tutto questo denaro che viene raccolto a furia di multare continuamente le società a suon di milioni di euro, perché qua non parliamo di centinaia di migliaia, ma veramente arrivano milioni di euro di sanzioni, combinate o irrogate? No, com'è la sanzione? Combinate è quando le minacci, ma quando poi devono multa, pagarle sono irrogate. Ecco qua. Allora, a chi è toccato adesso? Ad HP. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso un articolato procedimento istruttorio nei confronti di HP Hewlett Packard, al termine del quale ha accertato che da alcuni anni la società avrebbe introdotto in molte stampanti di varia tipologia, vendute appunto ai consumatori, significative limitazioni all'utilizzo di cartucce di inchiostro toner non originali. Per questo alle due società, appunto, le due forme societarie in cui la società è articolata per l'appunto, sono state irrogate sanzioni per 10 milioni di euro. E quindi, come dire, mi pare che l'attività dell'antitrust sia veramente molto vivace in questo periodo, colpiscono senza pietà, e allora io direi che in una prossima puntata, Mauro, potremo sicuramente dedicarci a tutto quello che hanno fatto quest'anno al loro servizio per il consumatore. C'è una grande campagna pubblicitaria in circolazione e soprattutto vorremmo capire poi questi soldi dove finiscono, perché da quello che mi risulta vengono redistribuiti fra le associazioni dei consumatori che devono a loro volta studiare e pianificare dei progetti per i consumatori stessi. Per cui è tutto un meccanismo virtuoso che si scatena e che forse vale la pena raccontare anche ai nostri ascoltatori. Lo faremo sicuramente. Intanto in edicola, ve lo ricordo, oggi con il Sole 24 Ore, Condominio Facile è la nostra guida facciamo spesso di queste guide dedicate anche al condominio, ma questa volta mi sento di caldeggiarla particolarmente. Perché? Perché c'è tutta una sezione dedicata al 110%, e il 110% in condominio è qualcosa quest'anno davvero di discriminante. Lo trovate in edicola insieme al Sole 24 Ore. Prego Deborah. Direi di andare subito al primo tema di questa mattina, perché già molto tardi. Delle altre notizie del giornale radio del risparmio ne parleremo nei prossimi giorni. Andiamo al primo tema di oggi, che riguarda sempre il lavoro. Parliamo di lavoro. Spazio al mondo dei trasporti oggi, Mauro, giusto? Giusto, perché abbiamo con noi Sergio Lomonte, che è il segretario nazionale di Confartigianato Trasporti. Buongiorno, bentornato a Due di Denari, una voce nota agli ascoltatori. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, la disturbiamo nuovamente perché la Commissione europea ha da poco diffuso alcuni chiarimenti sul pacchetto mobilità. Il pacchetto mobilità, con questo termine si intendono una serie di regole nuove per l'autotrasporto che sono state previste dal Parlamento europeo e che stanno entrando in vigore, diciamo, un po' alla volta. Già nel corso dell'estate è cominciata una parte a entrare in vigore e in generale è un pacchetto che è pensato per migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti e l'accesso al mercato del trasporto merci. Poi ha anche tutta una connotazione ambientale per ridurre le emissioni di CO2, per sistemi di pedaggio intelligenti, eccetera, eccetera. Allora, se ho riassunto correttamente, segretario Lomonte, può descriverci semplicemente, insomma, quali sono i fenomeni che si cerca di contrastare? Perché si parla anche di contrasto al dumping sociale, cosa si intende? Sì, esatto. Questo nuovo pacchetto di norme che sono entrate in vigore in estate, sul quale ritorniamo volentieri, grazie anzi dell'invito, è un pacchetto che mira sostanzialmente a contenere la concorrenza sleale tra gli operatori nel mondo del trasporto. Oggi noi viviamo ancora una fase in cui, a seguito dell'allargamento ai paesi dell'est, vi è stata, tra virgolette, no, consentitemi il termine, un'invasione di questi vettori che tutti noi vediamo fermi anche a parte girare sulle nostre strade ed autostrade, ma anche fermi nelle stazioni di servizio, no, talvolta a bivaccare o col fornelletto dietro per prepararsi da mangiare. Ecco, questo nuovo pacchetto di norme servirà proprio a limitare la concorrenza sleale, quindi il fatto che questi autisti di paesi dell'est vengano schiavizzati, utilizzati anche con diciamo con modalità non appropriate alla persona umana, che spesso, ecco, vengono lasciate percorrere strade ed autostrade senza il rispetto di alcuna regola sociale. Perché? Questo ha determinato nel mondo dei servizi del trasporto proprio un dumping, quindi le nostre aziende, le italiane soprattutto, che non hanno delocalizzato, che non hanno la possibilità di attuare e di praticare un costo del lavoro più basso, si sono viste spiazzate, perdere i servizi di trasporto proprio da questi nuovi operatori che hanno invaso il mercato comune e che in qualche modo hanno abbassato le tariffe in spregio alla sicurezza stradale e sociale. Esatto, perché poi c'è un problema proprio di sicurezza, perché ad esempio in una del pacchetto mobilità è previsto ad esempio del periodo di riposo settimanale regolare, che è quello a cui lei faceva accenno dicendo a volte vediamo questi autisti, diciamo, utilizzati in modo davvero incongruo, per non usare altri termini più forti, che bivaccano in qualche modo, ma perché non hanno ad esempio il diritto a un periodo di riposo settimanale regolare, che invece adesso dovrà essere trascorso fuori dal veicolo, e se viene effettuato lontano da casa deve essere pagato, deve essere retribuito dal datore. Questo è abbastanza centrale, mi sembra, nella lotta a un utilizzo sconsiderato degli autisti e quindi anche per la nostra sicurezza in strada. Sì, devo dire che questo è uno degli elementi più qualificanti del pacchetto di normative che appunto sono state approvate e adesso via via entreranno in vigore, perché hanno delle entrate in vigore un po' scaglionate. C'è da sottolineare che il divieto di riposo in cabina era già previsto da una norma precedente rispetto al pacchetto mobilità, ma di fatto disattesa da quasi tutti i paesi. Quindi il merito del pacchetto mobilità è quello di andare ad armonizzare, ad uniformare proprio su tutto il territorio comunitario queste norme, tra cui appunto quello di dover godere del riposo regolare, quindi quello di 45 ore, non solo al di fuori della cabina, ma soprattutto in un luogo adatto, in un luogo adeguato, non più nei parcheggi piuttosto che nelle stazioni di servizio, ma addirittura i datori di lavoro, mi riferisco a quelli internazionali, non certo agli italiani, la cui totalità praticamente fa soltanto servizi di trasporto nazionale, dovranno necessariamente essere messi in condizioni umane, io le definisco semplicemente umane, non privilegiate, per godere del riposo regolare, appunto, in un albergo piuttosto che in un luogo confacente appunto al riposo, che possa consentirgli poi di mettersi nuovamente su strada. Ma mi lasci anche dire, essenziale è stato portare a casa l'obbligo di rientro non solo dell'autista ma anche del mezzo dopo 8 settimane nel paese di residenza, comunque di dove ha la sede legale l'impresa, perché talvolta cosa avveniva? Che il mezzo rimaneva per esempio in Italia ad un'impresa polacca o rumena, cambiavano semplicemente l'autista e quel mezzo continuava a scorazzare, quindi di fatto non fermandosi mai e attuando una concorrenza sleale per i nostri operatori. Su questo è stato fondamentale anche l'apporto dei nostri europarlamentari, che io mi sento qui pubblicamente di ringraziare, di qualsiasi colore politico, che si sono spesi appunto perché hanno compreso le necessità che Confartigianato Trasporti, ma devo dire un po' tutto il mondo del trasporto, la nostra organizzazione in particolare, ha portato avanti proprio per il bene dei trasportatori italiani e per la salvaguardia di condizioni di lavoro non schiavizzate, potessero consentire in qualche modo anche delle regole comuni su tutto il versante comunitario. Ecco, ci auguriamo che dall'applicazione del pacchetto mobilità si possa veramente trarre un vantaggio e un valore aggiunto per tutto il mercato comune dei servizi di trasporto. Grazie. Mauro, posso fare una domanda, magari sì, proprio un'ultima prima di salutarci, perché mi sembrava anche interessante, dato il periodo in cui molte persone sono a caccia di opportunità professionali, magari vorrebbero proprio essere impiegate in questo settore, in quello del trasporto, ne abbiamo parlato molto spesso, proprio alla luce anche di questo pacchetto trasporti Lomonte. Diamo 2 indicazioni alle persone all'ascolto appunto su come individuare anche un'azienda seria che non appunto lavora secondo questi criteri poco professionali che abbiamo indicato poco fa. Sì, sicuramente il mondo del trasporto, che ha visto e vedrà nei prossimi anni una mancanza, si stima, di 15-17 mila autisti, è sicuramente un mondo affascinante, non è più il mondo del veicolo vecchio ed inquinante. Oggi abbiamo appunto nel rispetto delle normative di sostenibilità e di tutela ambientale dei veicoli ultramoderni, tecnologicamente avanzati, digitalizzati, e quindi il consiglio per chiunque voglia approcciarsi a questa professione è quello di sicuramente applicare, comunque presentarsi per una ad un'azienda che non solo risponda alla effettiva applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro che noi applichiamo, e quindi una giusta retribuzione, giusti orari di guida e di riposo che contemplino appunto le esigenze di sicurezza, ma anche, lasciatemi dire, tanta formazione, perché oggi la professione è veramente specialistica, è una professione che può dar tante soddisfazioni, soprattutto se pensiamo a tutto lo sviluppo dell'e-commerce, a tutto ciò che sta cambiando anche i nostri canoni abituali di consumo, che rende sempre più indispensabile il trasporto sia di ultimo miglio sia di distribuzione che di linea sul territorio nazionale. Grazie a Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato, che ci ha aiutato a capire cosa c'è in questo nuovo pacchetto mobilità. E adesso parliamo di lavoro con INAPP. Parliamo di lavoro con INAPP. Deborah, sono già collegati con noi i 2 esperti. Ottimo. Che questa mattina ci aiutano a capire qual è l'impatto sul mondo del lavoro dei cambiamenti demografici e tecnologici. Questo per fare un riassunto davvero molto sintetico. E allora do il benvenuto in rigoroso ordine alfabetico per cognome, naturalmente, nonché per doverosa galanteria, alla dottoressa Maria Luisa Aversa, sociologa presso la struttura Lavoro e Professioni di INAPP, che lavora con il gruppo appunto appunto un gruppo di ricerca denominato Dinamiche demografiche e invecchiamento attivo nel mercato del lavoro. Benvenuta, dottoressa Aversa. Buongiorno, grazie. Insieme alla dottoressa Aversa abbiamo in collegamento il dottor Pietro Checcucci, che è pure sociologo presso la struttura lavoro e professioni sempre di INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, e in questa struttura il dottor Checcucci coordina il gruppo di ricerca Dinamiche demografiche e invecchiamento attivo nel mercato del lavoro, quello testé nominato per la dottoressa Aversa. Buongiorno, benvenuto dottor Checcucci. Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, voi avete proseguito in un triennio, chiedo proprio a lei, dottor Checcucci, una ricerca su innovazione tecnologica e invecchiamento della forza lavoro. E perché avete sentito il bisogno di proseguire questo lavoro di ricerca e le maggiori evidenze in un paio di minuti? Abbiamo sentito questa esigenza perché l'Istituto da parecchio tempo, con il nostro gruppo ma anche con altri gruppi di ricerca, si occupa del tema dell'invecchiamento demografico della popolazione e della forza lavoro in particolare. In questo caso abbiamo pensato di focalizzare l'attenzione ovviamente su quella che ormai viene definita la rivoluzione 4.0, quindi in qualche modo il fenomeno che riguarda la digitalizzazione complessiva del sistema economico, che viene sempre additato anche come potenziale distruttore di posti di lavoro, creatore di nuove professionalità, ma anche, come dire, eliminatore, per usare una brutta parola, di vecchie professionalità. L'avete riscontrato? Guardi, la rivoluzione 4.0 è ancora una rivoluzione annunciata, più che in qualche modo una rivoluzione completata. Sicuramente è in atto. Molti criticano il fatto che si tratti di una rivoluzione, nel senso che la vedono piuttosto come un riadattamento con nuove tecnologie di modalità produttive e organizzative proprie della fase tecnologica precedente. Questo fa sì che noi non riusciamo ancora a vedere bene quelle che potranno essere le conseguenze in termini di composizione della forza lavoro e di eventuale spostamento di lavoratori da un settore all'altro o di spiazzamento, cioè diciamo di, per dirla in linguaggio semplice, di disoccupazione. Tutte le previsioni che facciamo, le previsioni che si trovano in qualche modo sono basate su dati molto limitati. Certo. Allora ci fermiamo un attimo perché sono le 11:30 in questo momento. Allora ascoltiamo rapidamente l'aggiornamento dai mercati finanziari in due parole: le borse. Questi due, la Rosciani e l'Altoli, tutto con sta pergamena, con sta cacchela. Due di denari. Buongiorno Deborah, sono Stefano da Venezia. Fantastica la disamina, bravissima. Velocissima, brava. Velocissima, disamina brutale, puntuale. Sono Stefano da Venezia. Ma la disamina di che? Non lo so, Deborah, se non lo sai tu, che Stefano cosa da Venezia. Ho disaminato? Non so se vuoi sentire i ricercatori che abbiamo in collegamento dell'INAP, se possono aiutarci. In realtà loro si sono preparati più sull'invecchiamento della forza lavoro e quindi tu saresti esclusa, forse non si ma riferivano quindi a quello. Stavamo parlando con Pietro Checcucci, sociologo e coordinatore del gruppo di ricerca Dinamiche demografiche e invecchiamento attivo nel mercato del lavoro, appunto della loro ricerca che è stata tra l'altro presentata recentemente in un webinar proprio nei primi giorni del mese di dicembre. Cosa è emerso sostanzialmente? Perché credo che i mutamenti demografici comincino a pesare visibilmente sulla forza lavoro, cioè siamo sempre di più lavoratori come dire coi capelli grigi, ecco, con diversamente giovani, forse è un termine più elegante. Checcucci. Sì, da una parte chiaramente il fatto che si lavora più a lungo anche per permettere al sistema pensionistico di essere in equilibrio comporta che cresce la quota di popolazione diciamo tra i 50 e i 64 anni rispetto al totale della forza lavoro. Dall'altra dobbiamo tenere conto che una transizione demografica che è iniziata già negli anni 60 ha visto diminuire moltissimo la fertilità della popolazione italiana e quindi i gruppi di età, diciamo le classi di età che ci seguono sul mercato del lavoro sono più magre rispetto alle nostre, che sono gli ultimi gruppi dei cosiddetti baby boomers degli anni 60, e quindi difficilmente potranno sostituire, anzi non potranno fisicamente sostituire di fatto tutte le posizioni che verranno lasciate scoperte dagli over 50, dai 50 a 64 anni. Questo farà sì che un rischio sempre più evidente di disequilibrio del sistema di welfare da un lato e di calo di produttività dall'altro gravi sul nostro sistema economico. E è anche il motivo per cui tutte le economie avanzate puntano anche sulla digitalizzazione per accrescere, per riguadagnare in termini di produttività quote perse. Ecco, ma prego. Andiamo, Deborah. Dottoressa. Esatto. No, sì, mi hai letto nel pensiero. Volevo sentire dalla dottoressa Aversa un'analisi, come dire, sul tema dell'intervento della tecnologia. Ci hanno spiegato anche alcuni esperti che sono intervenuti nel nostro programma che, per esempio, il fatto che molte aziende abbiano investito molto in innovazione tecnologica abbia consentito, per esempio, un maggiore impiego della componente femminile, perché molti lavori paradossalmente sono diventati meno pesanti. Io banalizzo molto i fenomeni, certo, a cui stiamo assistendo, ma questo è quanto è avvenuto. Per quello che riguarda invece l'inclusione dei lavoratori di età matura, ecco, l'impatto tecnologico come si è trasferito in questa, come dire, fascia anagrafica? Allora, diciamo, la domanda è molto interessante, sì, e devo dire che noi, per esempio, abbiamo la nostra ricerca riguardato tendenzialmente il settore manifatturiero e il settore dei servizi, in particolare quello sanitario e il servizio finanziario e assicurativo. E per quanto riguarda, diciamo, in generale, cioè diciamo, i maggiori risultati, quello che esce fuori è che la digitalizzazione richiede comunque un ripensamento, un ridisegno complessivo proprio dell'organizzazione del lavoro, ponendo al centro proprio la persona, no? E quindi con tutti i suoi bisogni e le sue necessità. Inoltre viene anche evidenziata la capacità connettiva e multidimensionale degli ecosistemi 4.0. Quindi creazioni di nuove infrastrutture sociali basate sul concetto di rete, di comunità, di piattaforma degli individui, ma anche ridefinizioni dei ruoli e di responsabilità del grado di autonomia delle persone. Dunque si parla di educazione in nuovi contesti e di responsabilità delle organizzazioni. Per quanto riguarda la domanda specifica, no, che mi stava facendo, come rispondono in qualche modo, che cosa richiede? Io gli posso parlare degli effetti macro, no, dei processi di digitalizzazione. Si parla per esempio di un effetto di nuovo modo di svolgere l'attività lavorativa, intesa come complementarietà, potenziamento, ma anche di sostituzione e di completa quindi automatizzazione dei processi, no, e dei compiti. Ovviamente questo è riferito soltanto ad alcune professioni, ad alcune mansioni, non è riferito nel suo insieme, bisognerebbe andare a vedere nei casi specifici. Per esempio, un'altra cosa che volevo sottolineare è che in questo, che diviene molto importante in questo processo di trasformazione, la capacità di acquisire competenze, ma soprattutto competenze, certo, strategiche, no? Che fanno riferimento alla capacità di apprendere ad apprendere, ovvero si parla di metacompetenze in grado di acquisire quindi dalle proprie esperienze, no? Ma anche di potenziare le proprie cognizioni durante tutto l'apprendimento della propria carriera lavorativa. La formazione è supportata egregiamente dalla tecnologia, con diversi e variegati strumenti che permettono la sperimentazione di molte metodologie di apprendimento, quelle per esempio interattive, che già in questa fase di emergenza sanitaria si sono rivelate particolarmente utili. Ecco, ma abbiamo visto pure che infatti l'ambito lavorativo in questo caso diventa agenzia di socializzazione tra le generazioni, ma anche agenzia formativa, ma rivista nei metodi e nei contenuti. Quindi il discorso è quello anche di ricostruire, no, il proprio percorso formativo durante tutta la vita lavorativa e professionale. Esatto, cioè, esatto, dottoressa Aversa, perché sì, appunto, per i lavoratori, sì, come dire, maturi, Il problema è anche quello, cioè che via via la tecnologia un pochino tende a emarginarti, nel senso proprio del termine, cioè a metterti un po' ai margini, e invece c'è bisogno di un surplus di formazione probabilmente. Sì, sì, ma infatti sono richieste le competenze non solo tecnologiche, no? Ma anche competenze soprattutto cognitive, personali e relazionali, le cosiddette soft skills, no? Ma anche nuovi profili professionali e reskilling e anche riformulazione di nuovi profili. Noi per esempio abbiamo visto che nel manifatturiero per esempio hanno creato questa nuova figura che si chiama proprio agente del cambiamento, change agent l'hanno chiamato, che appunto accompagna i lavoratori in qualche modo, ma anche l'organizzazione verso il cambiamento, no? Infatti abbiamo visto che in tale processo di cambiamento la comunicazione rappresenta un punto di forza, ma anche il punto nevralgico. Infatti spesso si parla, ma anzi diventa necessario a questo punto, quasi una sorta di riprogrammazione linguistica e culturale delle organizzazioni, no? In quanto per esempio questa figura, no? Che cosa rappresenta questa figura del change agent? A me sembra una figura molto simile a quella del mediatore culturale, no? Colui che per esempio opera laddove vi sia urgenza di intermediazione tra attori, mondi e stanze diverse, certo, quindi è un po' la sintesi, crea un ponte, in qualche per modo. Così dire. Aspetti, sì, aspetti infatti, dottoressa, perché è il 45esimo e qui al 45esimo l'arbitro inesorabile fischia il traffico. C'è troppa confusione in giro. Due di denari. Ok, sono Stefano da Venezia. Allora, la disamina era che questi fanno i fighi perché se lo possono permettere. Certo, tutti belli, politicamente corretti, io faccio fare la carriera a te perché io sei la persona più importante. Non è vero, perché se tu devi pagarti le bollette, i mutui, tutte le varie cose, io ho fatto una sintesi estrema, scusa. Sono Stefano da Venezia. Scusa Deborah, però Stefano da Venezia, sentitevi voi, perché non è che possiamo occupare la trasmissione, abbi pazienza se te lo dico. Vabbè, era necessario che precisasse la natura del suo commento, effettivamente parlava della disamina che abbiamo fatto sulla scelta dell'amministratore delegato di Zalando di fare il famoso passo indietro per consentire a sua moglie di dedicarsi alla carriera, ma è chiaro che con una bella valanga di miliardi sul conto corrente pensiamo che sia una scelta anche abbastanza facile. Magari si è stufato lui di fare l'amministratore delegato di una società impegnativa e così l'ha raccontata dicendo che vuole dedicarsi alla famiglia e ai figli e permettere alla moglie di far carriera. Sono un po' maliziosa questa mattina, però bisognerebbe conoscerle tutte le vicende prima di commentare, soprattutto di dedicare tanto spazio sui giornali come se fosse veramente il panda. Lo è oggettivamente, e però non è che sia proprio una questione brillante e particolarmente positiva questa, ecco, so di interpretare il pensiero di molte donne. Io, tu lo sai Mauro come sono fatta, non sono né per le quote rosa, non sono la femminista, sono una molto tranquilla su questi argomenti, però un pochino così avevo qualche perplessità su tutto l'impianto della storia. Ma oltretutto lui è molto giovane e quindi non ha il problema di cui stiamo parlando questa mattina. No, infatti lui non è un lavoratore, non so se abbia neanche un lavoratore 37, maturo, come anni. Si dice, esatto, lavoratore infatti. O lavoratrice matura, perché mi immagino che Cucci nella vostra ricerca non si è fatta una distinzione di genere. Dottor Checucci. Genere è la questione delle questioni anche all'interno di questo tema, nel senso che come diciamo nelle classi di età under 50, anche tra gli over 50 c'è un problema di mancata partecipazione femminile al mercato del lavoro, è un tema che probabilmente avete affrontato in un'altra trasmissione. Sì, è così. Abbiamo affrontato anche poi il tema della, soprattutto alla ripresa post lockdown, della così minori opportunità per le lavoratrici rispetto ai lavoratori, ecco, questo emergeva da un'altra ricerca dell'istituto. Per voi avete proprio lei, mi sembra, dottor Checucci, però avete evocato il settore sanitario segnalandolo come uno degli ambiti su cui vi siete concentrati. Cosa è emerso a proposito del settore sanitario nella vostra ricerca? Noi in realtà l'abbiamo pensato, abbiamo pensato di concentrare l'attenzione anche su questo settore proprio all'esplodere della pandemia, nel senso che Noi abbiamo cominciato come tutti il 2020 e come qualunque altro anno, sostanzialmente pensando di poter svolgere la nostra ricerca sul settore dei servizi. Ci siamo resi conto che improvvisamente, a causa del Covid-19, il settore sanitario era diventato il settore più importante nel panorama italiano, considerato anche che in realtà è il più anziano, perché praticamente forse è uno degli ambiti, soprattutto tra il personale medico, dove si riscontra l'età media più elevata. La pandemia indubbiamente ha agito da enorme fattore di stress, no? Ha provocato una enorme sofferenza tra la popolazione e ha anche, ha avuto le sue vittime, no? Ha fatto pagare il suo tributo all'interno dello stesso sistema sanitario, tra medici, infermieri e altro personale coinvolto. Dall'altra però in qualche modo ha accelerato una serie di processi che erano in corso, anche relativamente all'ingresso delle nuove tecnologie nel mondo del lavoro. Sostanzialmente il Covid ci ha costretto a ridefinire quelli che sono un po' i parametri di rischio, no? Il discorso della salute e sicurezza sul lavoro, che attualmente è completamente mutato a causa dei provvedimenti finalizzati, no? Dei protocolli finalizzati a contenere il contagio. Ha avuto l'impatto devastante sui servizi, che sappiamo, perché che ha distrutto praticamente l'essenza dei servizi, cioè il contatto fisico e sociale. Ha accelerato, come sappiamo, tutte le soluzioni smart working, ovviamente costringendo privati e scuola e sistema sanitario, come potremmo vedere, ad adottare soluzioni che magari erano soltanto attive a livello sperimentale. Ci ha fatto anche riconsiderare i fattori demografici, perché laddove siamo stati costretti a richiamare in servizio medici in pensione, questo ci dice che in realtà ci troviamo di fronte già adesso a problemi di quelli che noi chiamiamo il labor shortage, cioè mancanza proprio di lavoratori a causa della transizione demografica, a causa del fatto che chi va in pensione magari non viene sostituito. Certo. Non necessariamente perché non viene sostituito per farraginosità burocratiche o di concorso, ma spesso proprio perché magari non c'è chi possa sostituirlo in tempi ragionevoli. L'ultima cosa che il Covid ci ha rivelato, ovviamente, è il ruolo critico dell'informazione. Gestire l'informazione sui contagi, sul tracciamento, in generale sul sistema sanitario, anche per implementare soluzioni di telemedicina per evitare il contatto inutile, pericoloso fra pazienti e personale sanitario, e ovviamente gestire l'informazione al pubblico sulla pandemia, che si è rivelato, no, un elemento assolutamente importante. Lo vediamo adesso anche con la questione dei vaccini. Deborah, prego. L'ultima domanda, la dottoressa Aversa, stiamo andando verso la conclusione, ma mi pare di aver intercettato appunto tra le pagine, le pieghe della vostra ricerca, anche questa indicazione. Voi parlate di age management, gestione dell'età. Che cosa vuol dire? Che all'interno di un'azienda dovrebbero configurarsi anche dei profili incaricati di monitorare il cambiamento demografico della propria forza lavoro, del proprio personale, in modo tale di adattarsi anche con rapidità ai cambiamenti che possono arrivare anche dall'impatto tecnologico e non solo? Che cosa indica questo concetto che rilevate appunto nelle vostre ricerche? Sì, diciamo, ha sintetizzato molto bene il concetto. Comunque le posso dire che in letteratura proprio per edge management si intende proprio una serie di interventi e di strategie messi a punto dalle aziende con l'obiettivo di creare le condizioni in cui ciascun individuo possa esprimere il proprio potenziale senza essere svantaggiato dalla propria età. Noi le nostre ricerche le abbiamo lette e interpretate attraverso l'edge management, ovvero abbiamo parlato di interconnessione fra fattori esogeni, quindi il contesto geografico, socio-economico e culturale, e l'organizzazione aziendale. Che cosa esce esattamente? Per esempio, ci sono una serie di dimensioni, no, di edge management, che riguardano il reclutamento, l'uscita dal lavoro, le competenze, la formazione, ma anche i percorsi di carriera, e la salute e sicurezza. Io mi vorrei soffermare un attimo sulla salute e sicurezza, visto un po' il momento, no? Purtroppo solo 30 secondi di tempo, ma glielo lasciamo fare se... Grazie. Allora posso anche concludere così, cioè vorrei dire soltanto che la tecnologia può dare un contributo piuttosto alto alla permanenza al lavoro dei lavoratori maturi e alla tutela della loro salute. Per esempio si pensi agli esoscheletri, no? Quindi questo, insomma, posso dire sono in quelle... breve, avendo... Sì, sono sì. quegli ausili che permettono, ad esempio, sì. per chi solleva pesi di sì. sopportare sì. meglio lo sforzo, no? Sono... Certo, sì, infatti, quindi possono dare sicuramente un valido aiuto, insomma, ai lavoratori anziani, che sono quelli comunque più soggetti a rischio di infortuni, E tra l'altro, insomma, verrebbe da dire che noi lavoratori anziani abbiamo via via più bisogno di una adattabilità dell'organizzazione, no, dottoressa? Certo, infatti soltanto migliorando la workability, no, che varia nel corso della nostra vita lavorativa, possiamo migliorare, diciamo, proprio la nostra occupabilità, quindi essere, diciamo, più idonei al lavoro. E averci anche maggiore soddisfazione, poi, perché è un po' questo il segreto. Allora ringraziamo Pietro Checcucci, sociologo INAPP, e Maria Luisa Versa, sociologa INAPP, per essere stati con noi. Abbiamo parlato di invecchiamento della forza lavoro, tendenze demografiche e tecnologia, insieme all'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Due di denari, cara Debora, torna domani. Ci sarai? Ci sarò. Buona giornata. Programma realizzato in collaborazione con INAPP in qualità di organismo intermedio del PONUS PAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.